Il libro di Enoch. Libro 6. Diluvio. Enoch 106. Dopo del tempo, mio figlio Matusalemme prese una moglie per suo figlio Lamech, e costei rimase incinta da lui e generò un figlio. Ed era, la sua carne, bianca come neve e rossa come rosa, e i capelli del suo capo e la sua chioma erano come bianca lana, e belli erano i suoi occhi e, quando li apriva, illuminava tutta la casa, come il sole, e tutta la casa risplendeva assai. E quando fu preso dalle mani dell'elevatrice, aprì la bocca e parlò al Signore di giustizia. Suo padre, Lamech, ebbe paura di lui e fuggì. E venne da suo padre Matusalemme e disse: «Io ho generato un figlio diverso. Non è come gli uomini, ma sembra figlio degli angeli del cielo, e la sua creazione è diversa e non è come noi e i suoi occhi sono come i raggi del sole. La sua faccia risplende. Mi sembra che egli non sia nato da me, ma dagli angeli ed io temo che, ai suoi giorni, avverrà un prodigio sulla terra. Ed ora io, padre mio, ti scongiuro e ti prego a che tu vada da Enoch nostro padre, ed ascolti da lui il vero, poiché la sua residenza è con gli angeli». E quando Matusalemme ascoltò le parole del figlio, venne da me, ai confini della terra, poiché aveva udito che io stavo colà, e gridò. Io udii la sua voce e venni presso di lui e gli dissi: «Eccomi, figlio mio, perché sei venuto presso di me?» Egli mi rispose e mi disse: «Son venuto da te per causa di una gran cosa e per la visione terribile per la quale mi sono avvicinato. Ora, ascoltami, o padre mio, poiché a mio figlio Lamech è nato un figlio il cui aspetto e la cui creazione non è come la creazione degli uomini. Il suo colore è bianco più della neve e rosso più della rosa. I suoi capelli sono bianchi più della bianca lana e i suoi occhi sono come i raggi del sole, ed egli ha aperto gli occhi ed ha illuminato tutta la casa. È stato sollevato dalle mani della levatrice, ha aperto la sua bocca e ha benedetto il Signore del cielo. E suo padre Lamech si è spaventato ed è corso da me e non credeva che egli fosse nato da lui, ma quasi come dagli angeli del cielo. Ed ecco, sono da te perché tu mi annunci il vero». Ed io, Enoch, risposi e gli dissi: «Il Signore rinnova le novità sulla terra ed io ho già visto ciò nella visione e ti ho fatto noto che nella generazione di Jared, mio padre, si è negleta, dall'alto dei cieli, la parola del Signore. Ed eccoli, fanno peccato e trasgrediscono la legge e si sono uniti con le donne e commettono peccato con esse e hanno preso mogli da esse, hanno generato figli. Genereranno sulla terra i giganti, non di spirito, ma di carne e sarà gran flagello sulla terra ed essa si laverà da tutta la corruzione. E sarà gran distruzione su tutta la terra, vi sarà un diluvio e, per un anno, vi sarà gran distruzione. Questo figlio che vi è stato generato, egli, solo, resterà sulla terra e tre suoi figli si salveranno con lui. Quando sulla terra moriranno tutti gli uomini, lui ed i suoi figli si salveranno. E adesso annuncia a tuo figlio Lamech che questo che è nato è veramente suo figlio e chiamalo Noè, perché egli vi sopravviverà ed egli ed i suoi figli si salveranno dalla distruzione che giungerà sulla terra, causata da tutti i peccati e da tutta la violenza che si compirà, ai suoi giorni, sulla terra. E dopo di ciò, vi sarà sulla terra iniquità maggiore della precedente, perché io conosco i segreti dei santi, dato che il Signore me li ha mostrati e fatti conoscere ed io ho letto sulle tavole del cielo. Enoch 107. Ed ho visto scritto su di esse che la umanità, di generazione in generazione, peccherà fin quando sorgerà una generazione di giustizia e la colpa sarà distrutta, il peccato sarà allontanato da sulla terra e tutto il bene verrà su di essa. Ed ora, figlio mio, va, annunzia a tuo figlio Lamech che questo figlio che è stato generato è veramente suo figlio e non vi è inganno. E quando Matusalemme udì la parola di suo padre Enoch a Condieresi poiché di nascosto gli aveva mostrato ogni fatto a Condieresi ritornò a vederlo e chiamò quel figlio col nome di Noè poiché egli rallegrerà la terra da ogni rovina. Enoch 108. Secondo libro che Enoch scrisse per suo figlio Matusalemme e per coloro che verranno dopo di lui e che custodiranno la legge nei tempi di dopo. Voi che avete applicato la legge, aspetterete, in quei giorni, fin quando saranno finiti coloro che operano il male e sarà finita la forza dei peccatori. E voi aspettate finché passi il peccato, poiché il loro nome sarà cancellato dai libri dei santi, la loro semenza sarà distrutta nell'eternità, i loro spiriti saranno uccisi e grideranno e gemeranno in un luogo deserto, oscuro e bruceranno nel fuoco poiché, colà, non vi sarà terra. E vidi, colà, qualcosa come una nuvola che non si vedeva bene, poiché, dal profondo, io non potevo vedere sopra e vidi la fiamma di fuoco ardere splendida e li vidi, mentre andavano in giro come montagne splendenti e si agitavano qua e là. E interrogai uno degli angeli santi che stava con me e gli dissi: che cos'è quella cosa, brillante dato che non è cielo? Ma fiamma di fuoco, che brucia sola, e voce di grido, pianto, lamenti e grande sofferenza. Ed egli mi disse, in quel luogo che tu vedi colà sono gettati gli spiriti dei peccatori e degli empi e di coloro che fanno il male e di quelli che pervertono tutto quel che il Dio, per bocca dei profeti, ha detto che doveva essere fatto. Perché, fra queste cose, ve ne sono alcune scritte e scolpite su, nel cielo, affinché gli angeli le leggano e conoscano quel che capiterà ai peccatori e agli spiriti degli umili e di coloro che affliggono i loro corpi e che sono ricompensati dal Signore e di quelli che sono vilipesi dagli uomini cattivi. Agli spiriti, di quelli che hanno amato il Signore, che non amano né l'oro né l'argento né tutte le cose belle che sono nel mondo, ma hanno dato il loro corpo al tormento, e agli spiriti, di quelli che, fin da quando nacquero, non hanno amato i cibi che sono sulla terra, ma si sono considerati come spiriti passeggeri e questo spirito hanno custodito. Ed il Signore li tentò assai, ma i loro spiriti furono trovati in purezza, affinché benedicessero il suo nome. Ed io ho letto, nei libri, tutti i loro meriti ed egli li ha retribuiti poiché essi mentre venivano calpestati dagli uomini cattivi sono stati trovati amanti del cielo più della loro vita. In eterno ed essi ascoltavano da loro rimprovero e maledizione e, mentre mi benedicevano, venivano vilipesi. Ed ora io chiamo le anime dei buoni dalla generazione di luce e trasformo coloro che sono nati nella tenebra, che non hanno richiesto onore, nei loro corpi, così come conveniva alla loro fede. E farò uscire nella luce splendente coloro che amano il mio nome santo e li porrò ciascuno sul trono della gloria della gloria di Lui. Ed essi risplenderanno per tempi incommensurabili, poiché il giudizio di Dio è giustizia, dato che, ai fedeli, egli dà la fede nella abitazione delle vie rette. Ed essi vedranno essere gettati nella tenebra quelli nati nella tenebra mentre i giusti risplenderanno. Ed i peccatori grideranno e li vedranno risplendere ed andare dove fu scritto, per loro, il giorno ed il tempo.